Nuova edizione del Festival della Partecipazione, siamo qui per parlarne con Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Buon pomeriggio Annalisa e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a voi. Allora Annalisa, come dicevo appunto, nuova edizione del Festival della Partecipazione che torna anche quest'anno a Bologna e partiamo un po' col chiederti quali sono le tematiche chiave che quest'anno attraverseranno il Festival e che appunto affronterà il Festival della Partecipazione. Allora siamo alla settima edizione ormai del Festival della Partecipazione, un evento che è promosso da un gruppo di organizzazioni, Action Aid, Cittadinanza Attiva, Lega Ambiente, quest'anno in collaborazione con la Caritas e da quando siamo a Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna. E quest'anno ovviamente non potevamo non occuparci dei due shock che hanno caratterizzato i periodi più recenti, e quindi lo shock della pandemia e lo shock della guerra, e abbiamo sottolineato anche col titolo scelto per questa edizione, che è reagire, la necessità e sicuramente l'energia da mettere in campo per gestire, superare attraverso la partecipazione, con il contributo della partecipazione, questi eventi che sono stati e sono molto impattanti sul destino dei cittadini e che proprio per questo richiedono un sovrappiù di partecipazione. Quindi si è cercato di ragionare su come la partecipazione dei cittadini possa determinare una nuova qualità dei processi democratici, spesso in questo periodo caratterizzati da dinamiche asfittiche, perché l'emergenza pandemica, la guerra hanno determinato e stanno determinando un accentramento delle decisioni, e siamo preoccupati anche del restringimento degli spazi della partecipazione. Perciò abbiamo ritenuto necessario partire da noi, dalla riflessione sul nostro modo di agire, di intervenire e anche di relazionarci come associazioni della cittadinanza attiva, della società civile, gli uni agli altri, e di affrontare quei temi che, fortemente interconnessi tra di loro, reclamano, esigono oggi una grande presenza di partecipazione dei cittadini: i temi della giustizia ambientale e climatica, i temi legati alla giustizia sociale e i temi legati alla salute globale. Abbiamo pensato di costruire intorno a questi tre macro temi, tre macro eventi che saranno rispettivamente venerdì 24, giustizia ambientale e climatica, sabato 25 nella mattina, giustizia sociale, e sabato 25 nel pomeriggio, salute globale. Ci è sembrato che questi tre macro temi siano fortemente interconnessi tra di loro e richiedano, come dicevo, uno sforzo di partecipazione, nuove energie da mettere in campo nel tentativo di assicurare dei progressi che vadano nella direzione della giustizia ambientale e sociale e della salute globale. Ricordavi appunto adesso anche i giorni in cui si svolgerà il festival, quindi dal 24 al 26 di giugno. Vogliamo dire magari il nome di qualche ospite speciale che sarà presente? I giorni scelti per il festival sono appunto dal 24 al 26 a Bologna, in presenza. Il comune ha messo a disposizione dell'evento gli spazi della città, la sala Tassinari, la piazza Coperta, l'auditorium Enzo Biagi, la piazza Nettuno. Quindi si parte alle 11 di venerdì 24 con un evento di apertura del festival, alla presenza delle organizzazioni, del sindaco Lepore e del ministro Giovannini. E fra gli ospiti dei tre giorni ce ne saranno anche alcuni bolognesi, e quindi Antonio Mumolo, Erika Capasso, ci sarà Tiziano Treu, con cui stiamo lavorando alla partecipazione rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché facciamo parte del tavolo di partenariato sul PNRR. a Laura Linda Sabbadini, per esempio, e chiuderemo poi domenica 26 intorno alle 18:30. Tra il 24 e il 26 animeremo più di 20 eventi, tavole rotonde, assemblee pubbliche, flash mob, eventi istituzionali, insomma un ricco repertorio di eventi che desideriamo offrire, oltre che ai cittadini, in particolare alla città di Bologna. Perfetto, Annalisa. Come ultima domanda ti chiedo le modalità di accesso al festival. Il festival sarà in presenza proprio perché sentivamo la necessità di riprendere a dialogare direttamente con i cittadini, perciò andando sul sito del festival è possibile vedere il programma e partecipare agli eventi previsti liberamente in presenza. Perfetto, Annalisa, io ti ringrazio, insomma ci vediamo tutti e tutte al Festival della Partecipazione dal 24 al 26 giugno. Grazie ancora. Molto volentieri, vi aspettiamo.